noi abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare già ormai 2 anni fa, con la quale proposta di legge chiedevamo che l'Emilia Romagna interrompesse il percorso che era in atto allora, diretto all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex articolo 116,3 della Costituzione. Noi avevamo chiesto questo con la LIP, avevamo raccolto 6.000 firme di cittadine e cittadini, la LIP era stata validata e quindi la LIP pendeva già nella scorsa legislatura. Nella legislatura attuale si è trasferita automaticamente come tutti gli atti di iniziativa popolare, vengono salvati nella legislatura successiva. Quindi oggi il Consiglio regionale e il Presidente in esordio ha fatto proprio riferimento alla nostra LIP e stamattina c'è stato un ripensamento critico fino in fondo del percorso portato avanti dalla Regione Emilia-Romagna nell'era Bonaccini. Io personalmente la considero una grande vittoria politica perché siamo riusciti a incidere proprio culturalmente anche nel percorso regionale in questo campo e abbiamo, io credo, con la nostra LIP porto su un vassoio d'argento la possibilità a questa nuova legislatura di rivedere gli antichi passi che erano stati gravissimi, perché il PD allora, la parte di Bonaccini, aveva in qualche modo coperto da sinistra il progetto secessionista di Veneto e Lombardia ed era un percorso gravissimo a nostro avviso, tant'è che appunto ci siamo mossi, abbiamo fatto banchetti, abbiamo fatto iniziative culturali sul territorio, proprio per rendere i cittadini consapevoli e metterli a conoscenza di quello che in regione si era fatto e si stava facendo allora. Oggi io credo che abbiamo raccolto il frutto di tutto questo nostro sforzo, perché appunto la regione ha posto all'attenzione sia il presidente della giunta che il presidente dell'assemblea e i consiglieri di maggioranza hanno svolto una revisione critica di quanto non solo portato avanti ma deliberato con precise risoluzioni del Consiglio regionale, quella del 2018 soprattutto molto importante, che ha conferito a Bonaccini il potere di negoziare con il governo e con i vari governi che si sono succeduti. Ecco, le volevo fare un'ultima domanda che riguarda invece in generale, al di là della posizione espressa oggi dall'Emilia Romagna, il destino dell'autonomia differenziata, perché De Pascale in aula ha detto oggi quella legge è su un binario morto, immagino facesse riferimento anche alla pronuncia della Corte Costituzionale che di fatto ha smontato punti salienti di quella legge. Quindi è davvero su un binario morto. Noi continueremo a portare avanti la nostra proposta di legge iniziativa popolare perché vogliamo che la regione non solo assuma impegni ma prenda e deliberi un atto formale, vuoi legge, vuoi risoluzione, un atto formale con il quale interrompe ogni processo di acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia. E quindi che non attivi più il 116,3 Costituzione. E ciò a prescindere o no, e qui mi ricollego alla sua domanda, dal fatto che venga emanata una nuova legge ordinaria in sostituzione della Calderoli oppure ad integrazione della 86-24, cioè la Calderoli ancora vigente in parte, perché la Consulta l'ha smontata in 14 punti, ma altri punti sono rimasti in piedi e quindi a prescindere dall'intervento legislativo del Parlamento, il pericolo di oggi è che il 116,3 della Costituzione può essere attivato con negoziazioni bilaterali regione-governo a prescindere dalla legge ordinaria.